Essere e benessere di Nicoletta Carbone. L'abbiamo sognata, inseguita per tanto e finalmente è arrivata, anche se in ritardo, e adesso, come se nulla fosse, avanza, pretese e rischia di metterci fretta. Parlo dell'estate. Buongiorno intanto da Nicoletta. Quest'estate, come ogni anno, come tutte le estate, ci stuzzica e ci pungola con la prova costume. Ci vuole asciutti, tonici, scattanti, freschi. Voi che fate? Partecipate? Le dite di sì o passate la mano? 800 24 0024. Potete seguirci naturalmente su Facebook e su Twitter. L'hashtag di oggi è Prova Costume. Ci vengo? Fantastico! Pensaci, Elliot, fra 3 giorni sarai su quella spiaggia nel tuo bikini. Al volo. Che c'è? Lo so che devo affrontare la prova bikini. Mi gira tanto la testa. Sono 3 giorni che non tocchi cibo. Non farmi la morale, ok? Va bene. Tutti la chiamano prova costume, prova bikini. Anche chi il costume o il bikini non avrà né occasione né intenzione di indossarlo, diciamocelo. Però con l'arrivo dell'estate, tanto più i vestiti si accorciano e diventano leggeri, tanto più i chili pesano. Allora, in nome di quella famosa prova costume, che poi altro non è che il momento in cui facciamo i conti, siamo più naturalmente portati a fare i conti con specchio e bilancia, cerchiamo di correre ai ripari. Il tempo stringe, il caldo forse aiuta ed eccoci qui. Buongiorno al dottor Filippo Ongaro, in linea con noi, vicepresidente dell'Associazione Medici Italiani Anti-Aging e autore di numerosi libri di cui abbiamo parlato, l'ultimo dei quali è Mangiare ci fa belli, quindi ci rende anche più belli per la prova costume. Buongiorno dottore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno. È un po' che non ci sentiamo e in effetti siamo... diventati più brutti noi, lo sa? No. Siamo diventati più brutti. Non credo proprio, sì. Però diciamo che la prova, la famosa prova costume di cui ogni anno inevitabilmente si parla, ci costringe anche un po' a ribadire la validità di parecchie cose che ci siamo sentiti dire spesso, quasi ogni anno, cioè non esistono i miracoli, ci vuole attività fisica regolare, alimentazione corretta, idratazione, soprattutto se andiamo verso l'estate, e poi forse imparare ad usare qualche integratore, qualche nutraceutico, qualche super cibo che ci aiuta un po' nella ricerca della forma fisica e anche di quella psichica che poi, come spesso abbiamo detto, vanno un po' di pari passo. Insomma. In realtà, come mi ha scritto giustamente un ascoltatore, l'estate arriva il 21 giugno, non prima. Però noi, e così evitiamo anche l'arrivo di altri messaggi che ci puntualizzano il giorno d'inizio dell'estate, diciamo bella stagione, così l'ascoltatore contento. Dottor Ongaro, comunque fa caldo e la gente si cerca di prepararsi. Lei sottolineava l'utilizzo di nutraceutici, che sono questi alimenti, sostanze che... Beh, è un po' un termine nuovo che unisce il concetto di nutriente al concetto di farmaco. Non tanto perché vi sia qualcosa di sintetico all'interno, ma perché diventa un nutriente super concentrato e messo per esempio in una capsula in grado di dare un'azione terapeutica più potente perché è concentrato e quindi non occorre mangiare un alimento in quantità enorme per avere una risposta, diciamo, fisiologica importante. Quindi noi oggi, dottor Ongaro, cercheremo di ripassare quelle che sono le regole, le indicazioni di uno stile alimentare che ci fa bene e probabilmente ci aiuta anche a perdere peso, ma con il suo aiuto e con l'aiuto di altri esperti aggiungeremo qualcosa in più. Parleremo dei nutraceutici e quindi abbineremo al cambiamento dello stile di vita alcune sostanze che ci aiutano ad arrivare a dei risultati e a mantenerli più a lungo? Sì, senza dubbio, risultati che poi sono connessi, ricordiamolo, a un concetto di salute, quindi non stiamo parlando di un risultato puramente estetico, la perdita di qualche chilo, quello deve essere una conseguenza di uno stile di vita corretto piuttosto che l'obiettivo primario. Allora, noi direi possiamo fare così, innanzitutto partire cercando di capire da dove partiamo e dove vogliamo andare e dove possiamo andare. 800 24 0024, potete intervenire sin d'ora, approfittiamo dell'opportunità di avere il dottor Ongaro qua con noi per farci farci un po' mettere a punto il nostro stile alimentare. Io direi stile di vita, perché come il dottor Ongaro ha sottolineato, lo facciamo tante volte, l'abbiamo fatto anche nel nostro reality Mangia con me, parliamo di stile di vita, cioè una corretta alimentazione e un'adeguata attività fisica. Allora, dottor Ongaro, prima di iniziare a prepararci per la prova costume, dobbiamo capire un pochino che cosa ci ha lasciato l'inverno. Sì, è corretto. Diciamo che per partire con un percorso di miglioramento dobbiamo prefiggerci degli obiettivi, anche per essere in grado di seguire nel tempo quello che stiamo facendo, e per fare questo dobbiamo partire da delle domande. Le domande base in questo momento dell'anno possono essere: quanti chili di troppo abbiamo accumulato, dove li abbiamo accumulati, sulla pancia, sulle cosce, sui glutei, si tratta solo di un problema estetico o iniziamo invece a sentire il peso di questi chili nel vero senso della parola, cioè ci sentiamo stanchi, appesantiti, cominciamo a fare fatica nella vita quotidiana. E soprattutto direi una cosa molto che appare insomma sempre molto più importante di quello che è stato in passato, è quanto incidono sul nostro comportamento alimentare l'ansia, lo stress e il cattivo umore. Sappiamo bene, Nicoletta, che oggi gran parte delle problematiche legate alla gestione del peso e al comportamento alimentare sono di fatto non tanto connesse al metabolismo quanto a un problema comportamentale, perché il cibo è una sorta di sedativo ansiolitico molto importante, ma di cui si tende ovviamente ad abusare. Andiamo subito nella provincia di Bologna. Alessandro è in linea con noi, 800 24 0024. Benvenuto Alessandro. Buongiorno Nicoletta, buongiorno dottor Ongaro. Siamo qua, si sta preparando, l'ha già superata, è pronto. La prova è superatissima. Veramente. Nel senso che no, è andato tutto bene, è un po' che ci stiamo lavorando dietro, fate parte di questo lavoro anche voi, perché grazie ai consigli del dottor Ongaro e altri comunque professionisti che collaborano con lei, il lavoro è stato molto interessante, soprattutto come diceva il dottor Ongaro, non solo dal punto di vista diciamo della bilancia, ma è proprio una questione di equilibrio psicofisico, cioè avendo un regime alimentare bilanciato, adeguato, sì, seguendo un po' di sport, cioè migliora completamente, lo status migliora a 360 gradi. Quindi questa potrebbe essere l'estate, questa fatidica prova costume, che a me non è che mi sia tanto simpatica, comunque potrebbe essere, quindi, come ci racconta Alessandro, un po' l'occasione per un cambiamento. Noi dobbiamo sempre essere pronti a cambiare, fare un passetto in più. Noi cambieremo oggi con l'aiuto del dottor Ongaro, proveremo così ad accarezzare l'idea di ritoccare il nostro stile alimentare, darci un po' una mossa. Io sono sicura, sarà piacevole e i risultati arriveranno, anche perché nella puntata di oggi il dottor Ongaro ci farà capire come in qualche modo potenziare e come raggiungere l'obiettivo anche con l'utilizzo dei nutraceutici. Insomma, riusciremo a sfilare un po' la figura, recuperando però energia, tono e salute. Dottor Ongaro. Sì, devo dire che la testimonianza di Alessandro è molto interessante, perché appunto coglie in pieno il significato di un miglioramento complessivo della sua salute, non soltanto un discorso di perdita di chili. E devo dire anche che è molto importante non puntare solo alla riduzione dell'introduzione di cibo, come abbiamo detto molte volte, dobbiamo in realtà rianimare il nostro metabolismo, dobbiamo risvegliarlo, e ciò che tiene il metabolismo attivo sono in realtà i muscoli. Questo troppo spesso viene dimenticato. L'attività fisica non serve solo per bruciare calorie, ma serve per costruire muscoli che aiutano il mantenimento del peso corretto, perché aumentano il metabolismo basale. Quindi parola d'ordine oggi è proprio metabolismo. Metabolismo, lo risvegliamo in vista dell'estate che arriverà, ma che insomma si sente già nell'aria, della bella stagione, e andiamo a sentire un breve estratto di il suo primo libro, dottor Ongaro, in cui spiegava proprio bene questo concetto. Noi dobbiamo risvegliare il metabolismo e tenerlo sveglio. Andiamo. Oltre ad avere innumerevoli benefici per la salute, un programma personalizzato di esercizio fisico permette di accelerare il metabolismo di base. Contrariamente a quello che si pensa, non è tanto importante quanto si consuma durante l'attività fisica, ma quanto l'esercizio riesca a mantenere attivo il metabolismo anche quando siamo a riposo. Basta riuscire ad aumentare il metabolismo basale di poche decine di calorie all'ora e il gioco è fatto. Sulle 24 ore il valore diventa elevatissimo. Questo è il segreto per dimagrire e si ottiene con una miscela di corretta alimentazione e di esercizio fisico bilanciato. Dottor Ungaro, allora intanto diciamo agli ascoltatori di chiamarci, scriverci per dire se hanno qualche chilo in più da buttare giù, dove si è annidato, e ricordate, mi sembra potrebbe essere utile anche aggiungere se siete sedentari o sportivi, e il dottor Ungaro calibrerà un po' la vostra, il vostro piano d'azione. Dottore. Sì, come abbiamo detto un attimo fa, non mi ricordavo più di aver scritto così bene. Ha visto? Questa cosa, ma no, effettivamente è questa la strategia, tant'è Nicoletta che nonostante le persone complessivamente tendono ad ingrassare sempre di più, non è vero che mangiamo di più complessivamente rispetto ad anni fa, forse mangiamo un po' peggio, ma la verità è che siamo tutti muscolarmente un po' ipotonici, abbiamo perso muscolo perché siamo troppo sedentari, e quindi riattivare il corpo anche con un'attività fisica che permetta di costruire un po' di muscoli significa poi bruciare più calorie attraverso il metabolismo basale e ovviamente non ricorrere a delle diete che sono troppo restrittive in termini calorici, che poi alla fine non fanno altro che spegnere il metabolismo ancora di più. Abbiamo Marco che ci chiama dalla provincia di Firenze, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno al dottor Organo, mi scusi se sono un po' emozionato, la prima volta che chiamo alla radio. Senta, un'informazione, siccome ho fatto una dieta, ho cominciato i primi di dicembre e ho perso 14 kg, abbinando un'attività fisica 3 volte a settimana, sono abbastanza contento del risultato, però quello non riesco a capire, e se, a volte mi rendo conto di andare a effettuare una dieta forse troppo ipocalorica, mi viene quasi un blocco, diciamo, quando devo mangiare, mi sento quasi in colpa quando ho mangiato troppo. Ecco, però volevo capire, essendo ipocalorica, quando mangio un po' di più perché vado fuori con gli amici, con la moglie, e vedo che prendo quei 2 chili in più, è normale che il corpo accumuli tutto quello che mangi in più? È possibile, certo Marco, quindi uno strappo si pesa sempre così tanto, dottor Ungaro? Ma devo dire che questo dipende anche da come gestiamo la bilancia, ne abbiamo anche parlato assieme in una puntata passata, Nicoletta. Sì, cioè anzi, se andate sulla pagina di Essere Benessere potete riascoltare, cliccate, utilizzatele questi estratti delle trasmissioni, perché sono consigli che tornano utili. Dottor Ungaro, sì, sulla bilancia avevamo parlato, insomma. No, il concetto è, insomma, dobbiamo usare la bilancia in maniera intelligente, non pesandosi continuamente giorno dopo giorno, in particolare dopo degli episodi, per esempio, di piccola trasgressione alimentare, no, all'interno di una dieta complessivamente ipocalorica. Meglio pesarsi una volta alla settimana, cercare di dare una regolarità a questa pesatura, perché poi quello che conta è la tendenza nel tempo, non sono le oscillazioni minime da un giorno all'altro. Certo è, nel caso di Marco, attenzione, meno 14 kg è un ottimo risultato, però non si può continuare a restringere le calorie all'infinito tentando di raggiungere un obiettivo di peso che uno ha in testa, quindi forse è arrivato anche il momento di puntare più sulla qualità dei nutrienti piuttosto che solo sulla riduzione calorica e ovviamente aumentare l'attività fisica. Alle volte tonificando il corpo il risultato complessivo è addirittura migliore, anche se non si perdono dei chili. Dottor Ungaro, ipotizziamo che una nostra ascoltatore o una nostra ascoltatrice decida oggi di iniziare un nuovo stile alimentare, di mangiare meglio, sempre con obiettivo di perdere quei 2 o 3 chiletti in vista della prova costume. Prendiamo il nostro piatto e che cosa ci mettiamo dentro? O andiamo per settimane? Ci può dare qualche indicazione? Beh, le indicazioni sono, diciamo, le nostre indicazioni di Mangia con me, cioè alla fine il piatto dovrebbe essere visivamente suddiviso in questo modo: una porzione molto abbondante di verdure, quindi circa metà piatto deve derivare dalle verdure, l'altra metà può essere ridivisa in due, un angolo viene dedicato alle proteine che si possono ruotare, si può inserire quelle di origine vegetale come i legumi o delle proteine di origine animale selezionandole bene, in particolare il pesce azzurro, e l'altro angolo rimanente da dedicare a dei cereali integrali, quindi il riso integrale, la pasta integrale o altro. Questo dovrebbe essere grosso modo la struttura di ogni pasto. Questo anche a salvaguardia degli ascoltatori, non lo dico io, ma lo dice l'Università di Harvard, che è un'università piuttosto prestigiosa, che ha così fornito questa idea del piatto unico salutare un po' in sostituzione della vecchia piramide alimentare. Credo che quando l'obiettivo è quello di limare i 2-3 chili, un misto di un po' di attività fisica è semplicemente un controllo maggiore sulla qualità della propria alimentazione e sui tanti piccoli errori quotidiani, no? Il famoso mangiare inconsapevole, arrivo troppo affamato la sera, apro il frigo, prendo la sera, il formaggio, il pane, eccetera, eccetera, eccetera, è più che sufficiente per togliere lo zucchero nel caffè. Una bevanda zuccherata è un buon punto, Nicoletta, da cui cominciare. Se uno si abituasse a bere il caffè amaro, che poi chi se ne intende di caffè lo considera ovviamente più buono, già si risparmia un bel po' di calorie, tra virgolette, vuote, perché quelle sono tutte calorie in più che non hanno nessun ruolo metabolicamente parlando. Possiamo partire da oggi per iniziare a fare questo cambiamento salutare, che non penalizza assolutamente il gusto, ma abbiamo detto più volte, parleremo anche dei nutraceutici. In questa nuova partenza, quali sono i nutraceutici che possono aiutarci a potenziare l'effetto di questo cambiamento? Beh, io credo che bisogna stare attenti al fatto che molte persone non raggiungono un introito vitaminico sufficiente, non il minimo necessario ad evitare ovviamente le patologie da carenza vitaminica, questo è un argomento ormai superato, in Occidente nessuno è esposto a questo problema, ma il valore ottimale di introito vitaminico per tenere il metabolismo tarato al rialzo, questo è stato dimostrato da vari studi, quindi un multivitaminico a dosaggio corretto può essere utile in molte condizioni. Aggiungerei a quello sicuramente un apporto maggiore di omega 3, che sia dall'alimento direttamente, per esempio il pesce azzurro, ma che sia anche con un nutraceutico, quindi con un integratore. Gli omega 3 oggi sono considerati preventivi per tantissime patologie e hanno anche quella funzione di stimolare il metabolismo della glicemia e dell'insulina, che ha tanto a che fare con l'aumento di peso e con soprattutto l'allargamento della pancia. Possono essere utili anche degli antiossidanti, molto stabile l'acido alfa-lipoico, che riduce i radicali liberi prodotti dal metabolismo ossidativo e che aumentano spesso quando si inizia a fare un'attività fisica e che possono però anche danneggiare la cellula, quindi se io aumento l'attività fisica è bene anche che mi protegga un po' dallo stress ossidativo. Ce ne sarebbero tanti altri, l'elenco, Nicoletta, è lunghissimo e devo dire che c'è sempre più ricerca anche a sostenere l'utilizzo di queste sostanze, che non vanno viste come un'alternativa o come una scorciatoia. Sono semplicemente un aiuto che viene da una nutrizione potenziata che possibilmente andrebbe tarata chiaramente su ogni singolo individuo, ma che insomma è ora di cominciare a conoscere, dottor Ongaro, perché la ricerca conferma l'utilità di queste sostanze. Multivitaminico, omega 3 sono importanti, non sono scorciatoie, sono aiuti che possono dare al nostro organismo quell'energia per continuare a stare bene e soprattutto a trarre il massimo vantaggio dal cambiamento di uno stile alimentare ma anche di attività fisica. In linea con noi abbiamo il professor Stefano Tirelli. Come poteva mancare? Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, a tutti gli ascoltatori. Allora, noi dobbiamo muoverci, ma sappiamo che, rifacendoci proprio alla prova costume, uomini e donne accumulano peso in punti diversi e per gli uomini sono solitamente la pancia, le maniglie dell'amore. Allora, io vorrei chiedere, sappiamo, professor Tirelli, che quando si dimagrisce non è che dimagriamo dove vogliamo noi, ma lì entra in azione l'attività fisica. Ci suggerisce qualche esercizio per le maniglie dell'amore, quindi tutto il girovita, un esercizio come ci propone lei, semplice, da poter fare a casa nostra nei momenti in cui abbiamo un attimo di tempo, che diventi proprio un compagno di vita, no? Un piccolo spazio di benessere. Sì, come diceva bene prima anche il dottor Ongaro, che saluto, diciamo che la situazione della sindrome metabolica, spesso quindi dello stress metabolico, incide molto su questa fascia addominale laterale del corpo, accumulando parecchio adipe. Allora, noi tutti, io penso, in casa facilmente possiamo avere una scopa, quindi prendiamo questa bella scopa, oltre che per pulire la nostra bella casa, anche per cercare di fare un esercizio molto semplice. Togliendo quella che è la parte laterale propria della scopa, mantengo il bastone, lo porto con entrambe le mani verso l'alto e dolcemente vado verso un lato mantenendo per circa 6-10 secondi la flessione e poi dolcemente riporto sempre con braccia estese il bastone verso l'altro lato mantenendolo per 6-10 secondi. Allora sembra un esercizio estremamente facile e dal punto di vista della praticità lo è. In realtà è un esercizio che svolge un'azione importante perché va a reclutare quei muscoli laterali addominali, cosiddetti obliqui, con una contrazione di 10 secondi. La contrazione di 10 secondi viene chiamata isometrica. Perché? Perché va a reclutare, dopo più secondi di contrazione, delle fibre muscolari cosiddette mute. Mute perché di solito durante l'attività quotidiana non parlano mai, non intervengono mai, ma andiamo a reclutarle laddove le stressiamo, gli diciamo allora io ti stresso per 10 secondi e a questo punto tu intervieni. Quante volte farlo? Per esempio posso farlo 15 volte da un lato, 15 volte dall'altro, ma la stessa cosa io posso farla portando sempre questo bastone verso l'alto e con una rotazione del mio tronco, cercando però in questo caso di mantenere il bacino e le piante dei piedi completamente ferme. Anche in questo caso sembrerebbe molto facile, ma se io lo faccio 15 volte a destra, 15 volte a sinistra, sentirò molto bene un allungamento muscolare che mi dà freschezza, mi dà energia, ma sentirò anche proprio il lavoro degli addominali obliqui. Poi c'è un terzo esercizio che è quello più semplice che conosciamo tutti, quindi appoggiamo le nostre gambe ad una sedia e con la schiena appoggiata al pavimento mi porto dolcemente il tronco verso le ginocchia e qui non importa quanto, non devo arrivare col petto attaccato alle ginocchia, posso anche flettere solo i pettorali per circa per una, diciamo, 30 gradi di flessione e poi scendo. Questo ovviamente tonifica la parte anteriore, quindi il retto degli addominali. Con soli tre esercizi quindi abbiamo lavorato sulla parte degli obliqui e sulla parte del retto degli addominali. Poi dopo vedremo che ci saranno anche altri esercizi invece molto semplici da fare proprio per la parte, per esempio, dei glutei, importantissime per la prova costume. Grazie professor Tirelli. Quindi con un bastone e una sedia i nostri ascoltatori possono organizzarsi una specie di palestra in casa e rimettersi in forma. Abbiamo Stefano dalla provincia di Padova, prima dei mercati. Stefano, buongiorno. Buongiorno, sono Stefano, sì? Ho 40 anni. Qual è la domanda? La domanda è un consiglio alimentare perché comunque non riesco più a dimagrire a livello locale con le manine dell'amore, anche se guardi che sono molto esigente con me stesso, io avrò in plicometria un 15%, 13% di grasso, non di più. Essere e benessere. Ho 48 anni e come tutti quelli della mia età, dopo i 45, mettiamo su quella pancettina rassicurante. Per noi è un compagno di viaggio ideale, è utile, anche in macchina ti appoggi il gomito sopra, davanti alla televisione che stai lì così, è bello, capito? E invece non puoi, perché viviamo in una società che si nutre di immagine, quindi devi sempre essere in forma e tua moglie te lo fa garbatamente notare. Peccato perché sembri giovanile, terribile parola, però il boilerino davanti, orca miseria. Siamo ritornati insieme. Prima dei mercati abbiamo sentito Stefano. Stefano, come molti di voi che mi stanno scrivendo, devo dire che mi scrivono anche tante mogli fidanzate, quindi Giacobazzi ha ragione. Devono far scendere un po' la pancia, che dottor Ongaro, non è poi così brutta a vedersi, è un problema più di salute che di estetica. Beh, oddio, insomma, dipende dai punti di vista. Dipende. Mi piace da un po' la pancetta morbida. No? Comunque, questo è un po' il chiodo fisso. Noi abbiamo la cellulite, voi ci avete le maniglie dell'amore. Ma, professor Tirelli, l'esercizio che lei ha suggerito con la scopa e quindi e poi con la sedia, diciamo così, possiamo passarlo anche al nostro ascoltatore? Sicuramente questi esercizi vanno fatti e non c'è bisogno di riscaldamento, non c'è bisogno di un riscaldamento precedente. Veramente, io le stavo per leggere invece Gabriele, che è un nostro amico su Facebook, che salutiamo e ringraziamo, ci scrive: gli esercizi presentati senza alcun riscaldamento a freddo può portare strappi e traumi, fatevi seguire da un kinesiologo nell'attività fisica. Ma diciamo che ci sono tanti modi per farsi pubblicità e ognuno ha il diritto di farlo sicuramente. Diciamo che questi esercizi proposti assolutamente non hanno bisogno di riscaldamento, perché sfido chiunque a praticarli in modo così appunto lento come abbiamo visto, e di per sé fungono già da esercizi di tonificazione e al contempo anche di riscaldamento. Per onestà e per chiarezza nei confronti degli ascoltatori bisognerebbe anche capire qual è la figura del kinesiologo. Allora ce ne sono due. Una è la figura di colui che si occupa di cinesiologia, cioè di analisi del movimento, e questa la si studia per esempio nella facoltà di scienze motorie come una delle materie principali. Invece in questo caso probabilmente si parla di kinesiologia applicata, che è una disciplina che prevede lo studio anche dei meridiani energetici e che attraverso dei test posturali ci può dire se ci sono dei muscoli ipotonici o ipertonici. Poi insomma c'è sempre qualcosa da imparare dagli esperti e anche dagli ascoltatori, e ringraziamo Gabriele che intervengono. Dottor Ongaro, ma abbiamo suggerito di tornare al piatto, lei ha introdotto anche i nutraceutici come alleati dei risultati che possiamo ottenere con questo cambiamento. Ci sono delle indicazioni più precise riguardo a quali assumere, se una persona è sedentaria, se invece fa attività fisica, se vuole magari perdere peso in una zona particolare più precisa delle altre? Sì, Nicoletta, partendo dal presupposto ovviamente che possiamo solo fare dei rapidi esempi e degli accenni, perché ripeto è un mondo molto molto vasto quello degli integratori e dei nutraceutici, direi prendendo come spunto il caso di Stefano, 40 anni ma esigente si è definito nei confronti anche del suo accumulo di grasso, che percentualmente in effetti era abbastanza basso ma considerato per lui troppo. Faccio un esempio che potrebbe essere quello di utilizzare un principio estratto da un albero africano che è la yohimbina, che è un attivatore metabolico importante, facilita la lipolisi e ha un certo grado di capacità di stimolare l'attività di alcuni recettori nel tessuto adiposo, che sono proprio i recettori che fanno bruciare del grasso. Come si chiama? Yohimbina. Yohimbina. Sì. Poi ovviamente, tornando un secondo anche al discorso della pancia e delle maniglie, ricordiamo sempre che può essere un po' un fenomeno legato all'insulino resistenza, più frequentemente visto nel maschio, per un insieme di ragioni ormonali ma anche di predisposizioni genetiche, e per ridurre questo tipo di grasso depositato nella parte centrale del corpo è fondamentale ridurre gli zuccheri, oltre a aumentare ovviamente l'attività fisica, che è la prima terapia contro l'insulino resistenza. Ermanno dalla provincia di Vicenza, Sara e Luciana. Ermanno, buongiorno. Salve. Io volevo chiedervi un po' di sintesi, perché abbiamo davvero tante telefonate e vorrei rispondere a tutte. Ermanno, vada. No, si sente. Ermanno, la richiamiamo, si sente male. A tra poco. Sara dalla provincia di Brescia, buongiorno. Buongiorno, volevo avere un'informazione per il mio fidanzato. Lui fa attività fisica 3 volte alla settimana, ha cambiato un po' l'alimentazione, quindi ha inserito più frutta e verdure, eccetera, però dice che non riesce a smaltire la pancetta. Non ha nessun tipo di sintomo, è stato introdotto all'inizio, tipo sonnolenza, eccetera, però volevo sapere un vostro consiglio. Allora, lei gli dica che lo amo ugualmente, perché certo, già questo lo... Ecco, vada a vedere le ricette di Mangia con me, ma intanto, dottor Ongaro e professor Tirelli, rapidamente, prima di passare a Luciana. Ma io l'unica battuta che potrei dire è, se fa attività fisica 3 volte alla settimana, poi bisogna vedere qual è, che stia attento a non stare troppo basso in termini di introito proteico, perché chiaramente l'attività fisica richiede di essere anche supportata da un sufficiente quantità di proteine ingestite con l'alimentazione, altrimenti il muscolo... Quindi meno carboidrati e più proteine? Sì, senza ovviamente passare agli eccessi, stiamo sempre parlando di un'alimentazione bilanciata, però il concetto è, facendo attività fisica io distruggo tessuto muscolare che ricostruendosi diventa più forte e più tonico. Se non ho i mattoni per far ricostruire questo tessuto muscolare, l'attività fisica ha una funzione catabolica, cioè finisce col distruggere tessuti invece che crearne di più forti, quindi andiamo in una direzione opposta a quello che vogliamo. Un consiglio rapido dal professor Tirelli prima di andare a sentire le informazioni sul traffico e prima di occuparci poi di glutei e di cellulite? È importantissima anche l'attività aerobica, quindi il camminare per esempio velocemente ad una frequenza elevata e con un percorso abbastanza lungo, perché più è lungo il percorso e più tendiamo a catabolizzare, quindi a disperdere e a consumare. Mm. Poi, visto che la nostra ascoltatrice sembrava innamorata e amasse questo suo compagno, proporrei di fare l'amore tante volte, che quella è un'attività fisica estremamente piacevole e si brucia. Certo, bravo, mi sembra questo un consiglio magnifico. Essere e benessere. Che stai facendo lì dietro? Si è impigliata la zip? No, la zip non è un problema, l'assenza di un forzuto è il problema. Che cosa cerca di dirmi? Niente, è la birra che parla. Magari hai portato la taglia sbagliata. Ho portato una seconda, ha sempre indossato la seconda, ma chiaramente qualcuno ha mangiato troppi stuzzichini al formaggio. Stavolta ho capito, che cosa vuoi insinuare, Carlotta? Cristina? Sto soltanto dicendo che c'è una minima possibilità che possa aver appena guadagnato. Guadagnato che cosa? Che cosa? Niente, solo forse appena qualche chilo. E se gli uomini abbondano di pancia, noi donne accumuliamo su cosce e glutei. Dottor Ongaro, anche se a noi non piace questo grasso migliore di quello della pancia degli uomini, ma più difficile da mandar giù. Sì, e in questo senso proprio mi riferisco anche a quel composto che ho citato prima, la ioimbina, che peraltro mi sono dimenticato di dire, è importante dirlo, è un composto ancora in fase di studio, non credo nemmeno che in Italia sia commercializzato. Allora ce ne dia uno negli Stati Uniti. Ce ne dia uno che fa bene. È un composto che per il discorso della cellulite in ambito di ricerca sta diventando molto importante. Proprio anche per questa ragione di cui stavamo parlando adesso, cioè la cellulite è più difficile da sconfiggere con un puro approccio alimentare, perché è di fatto grasso intrappolato nella zona sottocutanea, e quando io vario l'introito alimentare comunque quel grasso non entra, diciamo, nella quota utilizzata a scopo energetico, quindi è difficile veramente da contrastare. Spesso la strategia qui è di lavorare invece sull'infiammazione del tessuto, quindi per esempio ancora una volta molto utili gli omega 3 o composti come la bromelina, per esempio, che è un antinfiammatorio, antiedemigeno molto noto, estratto dall'ananas. Che ha una funzione importante anche nel ridurre l'infiammazione nel sottocutaneo. Insomma, è un nemico tosto la cellulite. E credo però che dallo studio di questi nuovi composti che derivano da piante come quelli che citavo prima, che magari adesso è prematuro ancora utilizzare, però verranno delle risposte interessanti, perché pare esserci un ruolo molto specifico di alcuni recettori che si trovano nei tessuti, che se sono spenti fanno sì che il grasso si accumuli proprio in quelle zone particolari. Nel frattempo, che cosa possiamo fare? Ci facciamo aiutare dalla professoressa Silvana Creia, che è in linea con noi. Professoressa, bentornata, docente di biochimica della nutrizione al Dipartimento di... Lo dico bene, mi piace un sacco. Di Scienze per la Qualità della Vita all'Università di Bologna. Buongiorno, professoressa. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Nell'attesa, noi che cosa possiamo fare con questa cellulite? Professoressa Creglia, diciamocelo tra di noi. Diciamocelo fra donne, cioè nessuna donna vorrebbe mai avere la cellulite, però è importante che ci rendiamo conto che purtroppo non esiste una dieta perfetta che magicamente ci possa far scomparire questo inestetismo per sempre. Tuttavia, un buon regime nutrizionale abbinato a del sano esercizio fisico, ad un impegno costante, ci può aiutare a contrastare il problema, migliorandolo nel suo complesso e soprattutto prevenendone la formazione. C'è da dire che la cellulite purtroppo è una patologia quasi squisitamente femminile, in quanto legata agli ormoni femminili, gli estrogeni, che favoriscono proprio il deposito di grasso nel tessuto sottocutaneo, nelle cosce, nei glutei, nelle ginocchia, nelle caviglie, ecco, più raramente nell'addome e negli arteri superiori. E a volte presenta un carattere familiare, quindi lì la genetica gioca un ruolo importante. Compare dopo la pubertà, ma peggiora. La conosciamo, purtroppo, ahimè, la conosciamo bene. Ma professoressa Creglia, ci sono delle sostanze che possiamo inserire per smuovere un po' la situazione, è il caso di dire? Sì, uscendo dal campo della nutraceutica ancora in fase di sperimentazione, rivolgiamoci agli alimenti che possiamo acquistare normalmente nei nostri mercati. Sì. Siccome il segreto è facilitare la diuresi, stimolare il drenaggio linfatico, dobbiamo innanzitutto consumare degli alimenti antinfiammatori, perché ricordiamo che il nome clinico della cellulite è pannicolopatia fibroedematosa, è proprio un'infiammazione del tessuto adiposo, quindi alimenti antinfiammatori come il pesce azzurro, ricco di omega 3, l'avocado, i cereali integrali, non certamente quelli raffinati, vegetali come le pere, gli asparagi, i broccoli e soprattutto vegetali ricchi di potassio che stimolano il drenaggio linfatico, cioè ci permettono di congestionare il tessuto adiposo, la famosa buccia d'arancia. Potassio che troviamo nella frutta secca, ma nelle verdure a foglia verde e nelle cipolle. Le cipolle permettono di contrastare la ritenzione idrica, purtroppo causano un non simpatico problema. Beh, ma io ad esempio le cuocio con acqua e un po' di aceto, il preziosissimo aceto, le cipolle e le faccio in insalata. Diuretiche. Fantastico. Sono fortemente diuretiche. Allora andiamo di cipolla contro la cellulite, contro la buccia d'arancia, prendete la cipolla. Sembra un altro piccolo segreto, frutti rossi. Frutti rossi. Delle fragole, delle ciliegie, perché hanno delle sostanze vasotrofiche. E non che proteggono. Esatto, i vasi, i capillari sanguigni che perdono la loro tonicità ed elasticità e sono una delle cause prodromiche provocando un rallentamento del flusso sanguigno a livello degli arti inferiori proprio di questa patologia. E soprattutto bere. Ma possibilmente dobbiamo... acqua, oligo minerale a basso contenuto di sodio, perché un altro segreto è cercare di diminuire il contenuto di sodio. Anche, anche il sale che aggiungiamo a tavola. Ma vorrei chiudere con il consiglio del professor Tirelli che ha pensato un esercizio o più esercizi proprio per noi donne, per i glutei e per la cellulite e forse anche un punto magico. Professor Tirelli. Allora, abbiamo innanzitutto gli esercizi per i glutei facilissimi da fare, quindi appoggio le mani su un tavolo e porto in modo alternato prima una gamba verso dietro, sentirò lavorare molto bene i glutei, quindi come se volessi dare dei calci verso dietro. Provo. E ne faccio tipo tre serie da 12 per ogni lato. Sì. Poi però la stessa cosa, mi appoggio solo con un dito al tavolo e questa volta mi mantengo in equilibrio su una gamba e l'altra andrà verso l'esterno. Quindi lavorerò col medio piccolo gluteo, non solo col grande gluteo, ma lavoro anche con gli adduttori. Sempre più difficile, con un dito. Ok, questo è... E poi una cosa bellissima, cerchiamo di sfruttare anche la medicina cinese, perché il meridiano, chiamato della vescica urinaria, è un meridiano che passa ai lati della colonna vertebrale. Usiamo anche la città come palestra. Se io sono in metropolitana sul tram o sull'autobus, spesso mi trovo questi tubi a cui io mi aggrappo, giustamente. Sì. Allora, se invece io mi appoggio con la schiena e uso l'inerzia della velocità, farò un autotrattamento con la pressione di questo tubo sulla mia schiena per tutto il viaggio e quindi sfrutto anche il tempo che mi rimane da casa all'ufficio e viceversa, utilizzando uno shiatsu dato da questa pressione. Straordinario! Sì, la posso fare anche in casa, stendo il materassino, metto due scope e mi appoggio mettendo ai lati della colonna queste scope, quindi pancia in alto, supina, porto le ginocchia al devo petto, salutarla. Professor Tirelli, grazie per essere stati con noi, vi saluto. Radio 24, la passione si sente. Essere e benessere.